A mi baste un fil di lune. A mi baste un fil di lune. E la buere ien fri poi. Tal seren che si semene, par che ridigniti voi. Ma lontan, sore le crete, il ciel viola si è scurit, e il gnocciant al si distude, tal tocur indormidit.